9:10 dalle mie parti. Ok, chi tocca? Claudio, avanti a te. Sì, io. Adesso voglio giornare adesso. Tu hai avuto, Claudio, tu hai geometra studiato. Cosa? Tu hai geometra studiato. Sì. Ma vabbè, tu come, tu hai fatto qualche anno normale o fuori corso? No, un anno fuori corso ho fatto io, perché sono partito un anno prima a fare militare. No, adesso stavo guardando la notizia, Nuova Sardegna, pensavo fosse già morto da qualche anno perché era molto anziano. Il prete di religione, Don Musina, ha conosciuto lei? Beh, non era il prete di religione, nostro. È geometri. Come aveva bocciato un anno. Va bene, se ha tirato contro a trucchi. Ma aveva bocciato religione proprio, infatti non te l'hanno fatta ripetere, però quell'anno dopo mi aveva messo 10. Mia madre era nera, mamma mia, adesso sto guardando le notizie che mi arrivano e c'era morto l'arcidiocesi di tutto, morto Don Musina, cavolo, ci avrà avuto più di 90 anni quell'uomo. 93 anni aveva, se i calcoli sono quelli, 93. A me mi ha fatto un'altra peggiore la tua. Quando è entrato, c'era il cambio del professore, quando è entrato lui stavamo facendo un casino nero noi, perché non mi ricordo cosa era successo, tutti ridendo, facendo. Lui è entrato, come faceva sempre, no, sempre sclerando, tutti e dopo, da così, non c'è più religione qua, no. Vai fuori, ma lasciando tutta la religione vola, d'inverno, vero, un freddo ci mandava la giamba. A me mi aveva rimandato perché stavo facendo il compito di rimandato, bucciando il compito di religione, e non ne stava facendo nessuno, io non facendo i fatti sui, però a un certo punto lo stavano facendo e io stavo facendo la settimana enigmistica, mi stavo mettendo a fare, tanto non mi interessa. Io ho visto tutti quanti che stavano facendo il compito ed ero l'unico che non lo stavo facendo. Faccio adesso, vabbè, lo faccio anch'io. No, no, tu adesso non fai più di compito. Stiamo bucciando in religione. Ma non si fa niente, cioè. Non si fa niente. No, da noi quando veniva si sedeva, a volte si leggeva il giornale, veramente il giornale, non so se era la Bibbia o se fuori dalla rasura. Va bene, mando alle ciance, avanti a chi tocca, Giovanni. È la prima volta che sento un prete che bucia in religione, cazzo, la prima volta. Forte. Alle medie era un fino a Porto Torres che buciava tutti, siamo studiati in religione. Stiamo parlando alle superiori, non alle medie, qua stiamo parlando ai geometri. E non mi ricordo se era terza geometri. Seconda e terza ha fatto la musica. Allora forse era in seconda, perché in terza poi mi aveva messo 10. Avevo copiato, tipo mia madre era nera, siccome mia madre è molto praticante, cattolica, anche io sono cattolico, Mario, non praticante, ma era una disperazione, quando, che vergogna adesso qua, siccome lì a Don Musina lo conosceva da quando erano ragazzini, lei aveva fatto tipo azione cattolica, cosa del genere, lui era, faceva catechismo e cosa del genere, lei faceva catechista a mia mamma prima di sposarsi, e lui faceva parte della parrucchia, da quando glielo ho detto. Mamma mia, era Maria che la viene ammazzata. Poi l'anno dopo ha fatto fare il compito, ha detto no, ma non mi butti. E lo sapevo, di che cos'era il compito? Non mi ricordo, sul Papa, qualcosa del genere. Mi ha detto, ma dammi famiglia cristiana, mi sono preparato la famiglia cristiana, l'ho copiato l'articolo, ne ha messo 10 e tutti. Ha copiato, non è giusto, sì, lo so che ha copiato, però almeno ci ha messo un po' di impegno e mi ha messo 10 religiosi. Quindi l'hai conosciuto Don Fino, ma ai bro geometri c'era anche Don Brangi, mi pare, no? Sì, ma quello era più tranquillo. Don Musina si faceva rispettare, era sempre in serio, sempre arrabbiato, non ridia mai. Quello mi ha battezzato a me. Come? Aspetta il telefono. Mi ha battezzato Don Musina a me. Battezzato? Esatto. Ma lui di che parrucchia era? Cosa, Sacro Cuore? No, Sacro Cuore c'era Don, come cavolo si chiama? Adesso non me lo ricordo più, aiutami, Don Piga, può essere? Sì, Dottor Piga, sì. Ma prima c'era anche Musina. Quando ero piccolo io che mi hanno battezzato c'era Don Musina. Ah, ma la mia famiglia li conoscevano tutti, mio padre, infatti erano neri, mio padre e mia madre, perché li conoscevano da quando erano bambini, quasi che abbia battezzato pure a loro, non lo so. Erano neri, quando l'ha saputo mia madre, se no mi avessero detto che mi avessero bocciato tutto l'anno, non ti potevano bocciare perché non esisteva come materia obbligatoria, se no mi avrebbero tolto il coso, magari se ne avessi avuto un altro, altri due avrei dovuto, mi avrebbero perso l'anno. Giovanni, vai tu. Non ho conosciuto, no, questi preti, neanche di cosa, perché le scuole le ho fatte in Toscana, dunque non li ho conosciuti. Comunque anche lì dove ho studiato io, erano abbastanza severi. Ma tu di che zona sei? Non sei sassarese d'origine? Sì, io sono sassarese, solo che da ragazzino mi sono trasferito, proprio da ragazzino, da bambino, avevo 7 anni, mi sono trasferito in Toscana, non sono tornato quando ne avevo 14-15. Ciao, chi è rimasto qua oltre a Giovanni? Gianni, Claudio, io, chi c'è oltre? Sono anche io, ciao Giovanni, se mi ascolti. Sì, Natalì, forse chiaro, e auguroni, giustamente vi l'hai arrivata a piazzarla, in antenna. Grazie. Natalì, tu sono Musina, ha conosciuto la? Io li ho conosciuti tutti. Una volta me ne sono fuggito, io un anno ne ho perso perché me ne sono fuggito e mi doveva interrogare il dottor Pia. E voi che l'amaro? A che maro era dottor Figa? Sì, una volta quando facevamo i chierichetti, io avevo ideato una cosa, e poi noi giochiamo al prete e voi fate i cosi, fate i fedeli che io vedo là che la comunione, avevamo preso il calice, erano tutti in fila, io mi stavo con la comunione, e entrato dottor Figa, gli aveva dato i bivi, via. Noi ci avevamo qua da piccoli, vabbè, noi quando piccolino andavamo, mio padre ci portava a Santa Caterina e c'era coso, Don Ruggiu e Don Chirchi, il coso, ma si chiama, il primo prete era Don Chirchi. E però quando era Don Anotta c'era Don Serra, che è morto, mi pare, l'anno scorso, più di 100 anni, 101 anni aveva, ma roba di Giaffotti, a me no, ma nella classe di mio fratello, ma Giaffotti vuoti, era manesco quel prete, poi già si è calmato. Vabbè, dottor Figa, io l'ho visto anche quando l'hanno seppellito, l'ho visto tutto là. Ma era ben voluto, nella parrocchia era ben voluto, cioè tutti ne hanno parlato bene, c'era, tu la conosci, Tetta, signorina Tetta, forse l'hai conosciuta, dai. No, io conoscevo la Maniccia dei Toni, Celestino, lo zio di Andrea Alcea, che erano della serie cattolica, poi c'era mio padre. Signorina Tetta era una vita nella parrocchia del Sacro Cuore, che il fratello c'aveva la cosa, riparavano le moto, non facciamo i cognomi, ma avrei capito, una signora un po' grossa fisicamente, ma una bontà e una generosità unica, era la zia di mio cognato. Conosci che già la conosco, forse era quella con gli occhiali grossi. Una bravissima donna, c'è un bellissimo ricordo, veramente in gamba. Ok, dai, cambiamo argomento, Mario, non interessa a nessuno. Claudio c'è ancora? Chi c'è? Marco? Chi è che ha fischiato? Io. Chi? Io, sono io. Perché non mi stanno modulato, forse è toccato qualcosa che mi aspetta. No, pensavo qualcuno che volesse entrare, tipo accordando. E c'è, prova. Fatta una domanda. Dai, Natale. Sto facendomi un paio di sigarette, dai, rimando tutto a Gianni. Sacco, non riesce a smettere, Natalino non vi riesce, è più forte di lui. Ora? C'è un fischiettino, non so da cosa dipende. Vai Giovanni. Stavo aspettando, ma Natalino cosa fuma? Cosa? Tabacco fumi Natalino? È un cocainomane lui, cosa tabacco? Cannabis fuma Natalino, cannoni. Cocomane. Terapeutica, a salutare. Vero che sei cocomane. Lasciate rollare. Via. Va bene. Esce il passo con 140 e questa già è calda, bella calda. Brucia la bella calda, guarda la fai. No, ma che? Oh, e comunque oggi per colpa di un forassacco, cazzo, forse mi diventa il cane cieco, cazzo. Cosa? Per colpa di un forassacco oggi, forse mi diventa il cane cieco. Attenzione con i forassacchi, ragazzi, perché è una brutta bestia per i cani, Non portate le versioni forassacchi perché è una brutta bestia. Questa meno forte è roba. Ho abbassato il volume, non me ne sono accorto. Buona, ottima. Ho dovuto abbassare perché ce l'ho di fronte all'orecchio, l'altro parlante mi rivende il soldo, l'ho messo al minimo, adesso non me ne sono accorto della differenza. Questo è 140 e 430 a pompa, questo è 140, ma già viaggia anche questo abbastanza bene. No, è bellissima, l'altra è più da combattimento, l'altra è più forte, più piena, però come tranquillità, come nitidezza, questa è più bella. Questa è meno a combattimento, poi c'è lo slider, quindi non le puoi sollevare molto, invece quello là è più da combattimento. Va bene, dai, usiamo questo allora. Marcolino Condor, per il Vella 2 la prendetta. Sì, oggi sono un po' una giugana, proprio, vabbè. A proposito di Forasacco, ma Gianni non ha avuto un problema quando era ieri o l'altro ieri? Quali sono quella specie di spighette che entrano ma non escono perché c'hanno quei peluzzi che si puntano? E quindi un casino toglie, quelli lì sono. Positivo, positivo, sono proprio quelli. Ma normalmente entrano nell'orecchio, nell'uccio, come ha fatto? Ma non lo so, il cane è un riopeccare, dunque è peloso, sicuramente ce l'aveva appoggiato, poi era seduto vicino a me. E mi sono spostato per spostare una sedia e gli ho dato un colpo di sedia, forse glielo ho spinto dentro io, però questo non ne sono sicuro. Non me ne sono accorto, sono passati 2-3 giorni finché oggi mi sono deciso, ho chiamato il veterinario, cazzo, e gliel'ha tolto, ma grande, enorme era, dentro l'occhio ce l'aveva, cazzo. E io sto controllando, ma non ha accorto anche un altro da l'orecchio, poveraccia, cazzo. Sono io, ho cambiato apparecchio. Chi è che sta facendo break? Avanti il break. Sì, sono saluti cordialità. Chi sei? Non ho capito. Chi sei? Da Lecce. Non ho capito, chi è che ha chiamato? Che ha detto cordialità. Aspetta, Robert. Attenzione, il collega di Lecce, avanti, la città di Sassari, nord Sardegna, avanti. Amico di Sassari 73, qui a Operatore Antonio, provincia di Lecce, avanti Sassari. Ciao, dai, l'operatore Gianni Doppiolù che ti supercordializza. Ti passo l'amico Roberto, avanti Roberto. Gianni, mi stai facendo sordo, abbassa un po'. Non ho capito il nome dell'amico, arrivi 9+10 qua, però non ho capito il nome, Bartolomeo, sbaglio? No, sei Antonio. Ah, ciao Antonio, qua Roberto, città di Sassari, in compagnia di Gianni, Claudio, Giovanni, Natalino e Marco. Vediamo Claudio che è uno dei più forti, per non dire più forti come segnale. Avanti Claudio per l'amico Antonio da Lecce. Vado. Ciao, avanti. Buonasera all'amico di Lecce, da Marco, città di Sassari sempre, siamo tutti qua. E mi ascolti, avanti Antonio. Sì, sì, tutti super cordiali, amici. Qui in Lecce, avanti. Se vuoi dire che tipo di apparato e che microfono stai utilizzando, Antonio, vediamo un pochettino, poi ti dirò le nostre condizioni. Perdonatemi se vi disturbo, io mi ritiro, mi ritiro per deliberare perché devo iniziare a preparare la cena. Un abbraccio a tutti, buon proseguo di quel show, grazie per le chiacchiere, a domani, ciao. Vabbè, noi ci vediamo domani, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao Claudio, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao Felipe. Ma sai, stava parlando l'amico Antonio da Lecce. Antonio, avanti, se ci sei ancora. L'hai ascoltato Natalino Antonio da Lecce? Gianni l'hai ascoltato? C'è qualche altro? Marco? Robè, io non lo copio. Allora, l'amico Antonio non ha quasi modulazione, la sento bassa. Poi troppe modulazioni in fondo e troppo QSB. Praticamente quando mi ha risposto il segnale sale e scende, ma è nel QRM. Fammi fare un passaggio a vedere spostamento. Si è abbassata la popolazione. No, qua arrivava 9. La radio magari non era fortissima, ma era abbastanza comprensibile. Purtroppo c'è QSB, adesso si è abbassata. Vediamo Antonio se ci sia ancora. Avanti. Stavo chiamando, Robè, ma non riuscivo. Chi è che sta chiamando? Avanti chi chiama l'Italia, avanti. Attenzione collega che chiami l'Italia, avanti. Non le pigiamenti, ma stava chiamando e non era italiano, era spagnolo. Io qui ho il Ciarpame a Santiago 6. Ho difficoltà a copiare stazioni che chiamano già. Anch'io ce l'ho molto alto il QRM, ce l'ho molto alto anche io. E vabbè, comunque adesso già sta calando un po', dai. E adesso sta cambiando il tempo pure. Almeno ci dia propagazione. Ma quando la propagazione è così uno sopra l'altro non mi piace niente, già. È brutta. Bello quando c'è pulita, per dire, è molto più stretta, per dire ti fai come l'altro giorno c'era tutto Bari, Lecce, sulla costa, diciamo, della, come si chiama, della Calabria, della Puglia, tutta quella zona lì, arrivavano tutti bene. Loro, tra di loro non si sentivano nell'arco di 30 km, però qua arrivavano anche 9-10, 9-15 arrivavano. Quando c'è marmuglia, nel senso troppa confusione, non si capisce niente. Adesso lui, il segnale era 9, quasi 9, poi c'erano altre modulazioni, un po' l'attenuavano, ci portava presso molto disturbo. Vediamo, Antonio, se ci sei ancora avanti a te, Roberto, da questa parte. Oh, signore, io vedevo allontanare Mari, se ci siete ci sentiamo più tardi. Comunque, ciao a tutti, vado in cuore di ciao Gianni, Natalino, Marco, Giovanni, Antonio, se ci ascolta, e tutti gli amici S2QAVL. Ciao, ciao, cuore di la parte mia. Ciao, Robè, ciao, ci sentiamo, buona serata. Avanti, Natalino. Ciao, Robè, buona serata, buon tutto alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere. Avanti, Marco. Ciao Roberto, buona serata, buon tutto. Come vedete, ho già rimesso il microfono di serie. È inutile, i tassini up down sono troppo comodi, soprattutto per me che mi metto coricato con le spalle al baracchino. L'ho già accantonato la pubblica. È forte di me già, è inutile. Te l'hai comparato, la microfono non lo uso. No, ma sai cos'è? Questo è solo MFM, il suo baracchino. Magari in banda laterale ti aiuta perché ti dà quella spinta in più rispetto al mic normale, no? Se devi fare qualche collegamento in banda laterale, in distanza, però per parlare in città è inutile amplificare. Tanto una volta che la radio è abbastanza chiara, capibile, poi te l'ho detto, il tastino up down, oppure sa il tastino con l'autosquench istantaneo, no? Per silenziare di botto la roba è impagabile per me. Eh beh certo, e vabbè, non avesse comodità, io per dire preferisco i microfoni da palmo perché me li allungo, mi sdraio nel letto e parlo tranquillo, capito? Io saluto Roberto e ne approfitto per salutarvi a tutti quanti. Ciao, buona serata, buon proseguimento. Ciao Giovanni, alla prossima, buona serata. Ciao Giovanni, alla prossima, buona serata anche a te. Avanti Gianni. Già andato. Natali, ti volevo chiedere com'era l'antenna a livello di rumorosità, ma non te lo posso chiedere perché c'è tanto di quel ciabotto di propagazione. Bisogna trovare una giornata senza QRM e senza propagazione per capire se è più proprio se è più silenziosa a livello di proprio di QRM elettrico, capito? Sì, è molto più silenziosa, l'ho provata ieri, molto più silenziosa. L'altra avevo sempre il QRM a Santiago 7, figurati un po'. Sì, incredibile, comunque molto l'ha fatto il capo, molti problemi gli ha dati il capo. Sono contento, dai, almeno. Poi c'è una bella larghezza di banda, quella lì non ti devi preoccupare di accordare. Capito? E infatti cosa accoglie? Va benissimo così. Ecco, adesso sono liscio, 3 batte. E ho notato una cosa di questi baracchinetti omologati attuali, allora appena li compri, li togli la scatola, li misuri con un watt metro buono, ci hanno 2,5 watt, massimo 2,7 watt modulati. È una cosa allucinante, cioè è omologato, nasce per i 4 watt, fa la 4 watt, inutile lo fai a 2,5 watt. Si sono aumentati molti, neanche il Polmar era così, mi pare. Tutti così sono. Poi fischiando arrivava a 2,7 e allora sono andato sul menu di servizio, l'ho messo giusto, 3,5 watt, muto, portante muta e 3,7 modulato, di più non va, non va. Proprio cazzo finali risicati, all'anima. Li hanno fatti apposta così, per non poterli toccare. Ma qua c'è il menu di servizio, almeno te lo porti alla normale potenza legale. Vabbè, se ci vendi, qualcuno si buria e non ne usa poi. Infatti, l'anno Granchivi, non imbatti, l'anno Granchivi. Per Sassari già va bene, ma se uno vuole trasmettere un po' più lontano, ma c'è. Anche perché sono veicolari questi piccolini, no? Sei in macchina, in più c'hai magari l'antenna corta da 1 metro, magari di poi 2,5 watt miseri. Vabbè, tu dici perdi 2 dB, nemmeno, però cacchio, non dico io. Gianni, riprendi. Riprendo, dai, vi saluto che me ne sto andando, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, quelli ti permettono. Buona serata. ciao già, ma tu avevi parlato del forasacco o per altre cose avevi contattato il veterinario? Adesso mi sto confondendo con Giovanni. Sì, ero io. Ah, il forasacco era, minchia, è una cosa, una dannazione per i cani, vabbè. Ok, ciao già, buona passeggiata col cane, allora sentiamo. Però Marco, ho portato il veterinario e non c'era ieri, mi ha dato l'appuntamento per oggi perché aveva fatto l'anestesia, invece oggi non ha starnutito per nulla, probabilmente l'ha espulso perché l'abbiamo trovato in terra, un forasacco, quindi deve essere quello. Quindi non gliel'ho portato, adesso vedo come si comporta, se dovesse di nuovo starnutire glielo porto, siamo d'accordo così col veterinario. E poi oltre che fuori a sacco e fuori a portafogli, il veterinario quando presenta il conto, poi mamma mia, tutti così sono tutti così, sono i soldi di aspetta, no, c'è nulla a fare, vabbè, ti presentare con Pavino, mamma mia, quindi stasera poi non esco, ieri ho esagerato. Non va bene, non ho voglia, mi voglio vedere il film, voglio stare tranquillo. E infatti, che cazzo va? Oh signor, mi servi dei noghi, altri denti. Allora, sto controllando qua, ma è strano, che è successo? No, stavo controllando il vasmetro, capito, ma già è giusto. Ma è tutto a posto, sì. Come è tutto a posto? Non dico tutto a posto, io ho notato una cosa, Natali. Certe volte cambia antenna, come può essere un'antenna veicolare, no? E ti cambia anche la lettura di watt sul rosmetro, sul wattmetro. Wattmetro naturalmente dai qua. Cioè, in base all'antenna con cui la copia, è successo anche a chi aveva antenne verticali. Una ti segna 3,5 e una ti segna 3 watt, pur non avendo stazionale, non ci ho preso uno. Vabbè. Natalie, se sei tu non stai uscendo. Stavo accordando, a vedere l'accordatore automatico, stavo provando. Con l'interno mi pare riesce a accordare fino a 2 stazionari, mi pare, o giù di lì, invece con l'accordatore manuale hai più range, capito? Puoi accordare anche se c'è 3, 4, 5, insomma, naturalmente poi l'antenna, come se vuole così altri, rende poco. Beh, Natalia, io così quasi stacco, c'ho voglia proprio di sdraiarmi, guardarmi la TV e prendermi qualcosa di fresco. Ok, ci sentiamo quando capita. Capa. Va bene, ci sentiamo. Anch'io faccio correre il tirato. Ciao a tutti. Sentiamo Natalia, adesso mi accompagna un attimo mamma in bagno. Ciao a tutti, ciao agli ascoltoni, ciao. Sì, ciao. Buonasera a tutti, buonanotte. Ciao Antonio, anche tu c'eri? Certo, sto ascoltando, che altro. Sì, dai, ci sentiamo in migliore occasione, Antonio. Oggi sono moggio. D'accordo che non c'è problema, è quello. Ok, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Prendo, uscite anche. E va bene, l'insulina non c'è. E chi mi ha portato in questa casa? Ci sono tutti i freddi. E mi sono finito il sushi. L'ho buttato 50 metri di cavo è RG213, al limite RG8, un UPL 50 euro, regalato. Subito mi riconosci? Beh, anche se c'è da poco, vedi, ho già fatto l'orecchio. Ne sono d'accordo, visto hai. Tutto a posto, va bene con questo, ma arrivi bene qua. Sì, c'è tutto a posto per tantino. E la vola. Vabbè, non c'è nessuno? No, vabbè. Invece prima pomeriggio ce n'è la gente. Aspetta un secondo. Sta avendo Simona cosa? Hai 2 minuti là. Tranquillo, tranquillo. No, a un certo punto cazzo. Meno male. Ma abbassa un po' il microfono, se non si sente troppo quello che ti circonda. D'accordo, che non c'è problema. Hai abbassato? Ehi, aspetta un attimo, va, vengo subito. Ancora si sente tutto, sta ancora amplificando. Tu mi dici come ti arrivo con quell'apparecchio? Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. E avanti. Ui, Anthony. Ui. Come sta va? Bene, bene. Finito di lavorare? Eia, tutto a posto, tutto finito. Cazzo, oggi che tu non mi ha pigliato un malato, lo sai? E fa cosa? Non si può dire, ma... Cazzo, sono sempre stato una bassa una mesa, cazzo, non ho mai avuto problemi con nessuno. Cazzo di aro, non posso dire cosa è successo, ma... Perché tu non mi ha preso per ladro? A buon orgoglio. Io sono un signore, sono. Oia, ma non così, no, di tanto di cappello. Oia, insomma, sono incastrato piano. Eia. Cioè, cazzo, a me questa cosa mi... Guarda, mi si dispiace, un bel mi si dispiace, perché io sono una persona seria. Sono, non ho mai detto ma per una cosa. E mi si dispiace molto, mi si dispiace, perché sono, cioè, no, non le faccio io certe cose. E beh, chi ti conosce già lo sa, via. Ma appunto, chi mi conosce bene bene lo sa, che Antonio Bombolo non è il padre di queste cose. Cioè, non le fa di queste cazzate, non ti preoccupare, se vuoi dico anche il cognome, a me non me ne ha fatto un cazzo, me. Non è che non ci perdo niente. Non lo so, non posso capire quello che ti è successo, però ti posso dispiacere, mi dispiace, dai. Cappa, ma è bigliato un ballato, ma è bigliato, cazzo. Ma buffolenti so che non ti do pure di là. Cioè, ma io non so neanche a dire cose, io lavoro. E grazie a Dio che io ho i soldi in tasca. se io ho i soldi in tasca, non ha più problemi, a me non me ne ha fatto un cazzo me. Cioè, però Dio vede e provvede, perché io sono stato onesto con la persona che sappiamo. Io sono stato molto onesto. Però Dio vede e provvede, vede. Perché io non ho fatto niente, mi sono comportato da signore. Magari c'è stata un'incomprensione, dai. Ah, me lo auguro, perché io ne sono sicurissimo, me li ho contati 4 volte i soldi, cioè, non sono un carriaggio io, cioè, ma stiamo scherzando, lo dico in radio, mi stai ascoltando, lo sto dicendo in radio, in radio lo sto dicendo, perché sono una persona onesta, e non ho mai rubato un cazzo, intendendomi, se hai coraggio, entra che stasera mi hai trovato, aiuto, che c'ho i coglioni, dai Cristo. Insomma, me ne vado in casa Antonio, oggi va. Basta un perde coglioni, basta, cazzo, io sono una persona onesta, non ho mai rubato niente a nessuno, e se ti devo dare 5 lire te li do, entra si fa i coglioni, entra chi sono cazzenti da te, che stasera ne la pigemmo, coglioni. Quanto a divisione, quanto a sali di coro? No, io via. Cappa, non per dire no, cazzo, ma sono troppo onesto, sono troppo onesto, la verità, sono troppo onesto. Io anche oggi l'opera buona l'ho fatta, sono andato a fare un soccorso, una macchina che si era incastrata a Portoferro, figurati, stavo arrivando da lavoro, dalle 6 di stamattina, sono arrivato alle 6 di sera, oggi molto in moto, d'ora ho recuperato a Portoferro, a trainarla, là, che era incastrata, c'è scendere un canalone. Fatto bene. A me a dirmi queste cose, stasera mi ha trovato a puntino me. Cazzo, ma in vita mia ho rubato niente. Cazzo, vuoi 5 euro te li do, vuoi 10 euro te li do, ne vuoi 20 te li do. Grazie a Dio sto lavorando, i soldi ce li ho. Cazzo, ce li ho i soldi, non ne ho problemi io. Non ho problemi con nessuno. Cazzo diavolo. Aiuto, se fai i coglioni, esci che stasera ne avvisiamo male, aiuto. Se c'è il coglione. Non sono da dirti, tanto. Giabba, cazzo è buco so che è incazzato, ma è incazzato stasera, mi è incazzato niente gioco. No cazzo, io si sputtano, io sputtano il radio, mi. No cazzo, io non sono una persona di quelle, no. Io non sono una persona troppo onesta, sono. Non ho mai fatto così strane, no, con la gente. Cioè, ne vuoi 10, ne vuoi 20, non ho detto manco va. Eri di Napa, mi dia a me l'orgoglio, ma vai coglione, scusando a chi c'è qua. Dai, pensate a risolverla parlandone. Ma spero che la risolva, lo spero c'hai i coglioni di risolverla, perché io cazzo non sono un pezzo di mesa, no? Non so, come vedi che io ce li ho le balle, come vedi che io ce li ho i coglioni, a me non me ne ha fatto un cazzo, che io te lo dico in radio, coglioni, cazzo, ci c'è le balle, cazzo che io non vado a rubare i soldi, coglioni, cazzo, che non mi attacco un PL, capo di gatto. Stavo di dire una vestiria burro, eh? Cazzo, ma ci mancherebbe altro, cazzo. Ragazzi, chi ha le palle esca, chi ha le palle, venga me lo dica in faccia, io, chi ha le balle, io ce li ho le balle, non ne ho problemi, e te lo dico pure in radio, ti sputtano, non me ne ha fatto un cazzo a me, non me ne ha fatto un cazzo, stasera mi hai trovato quei coglioni girati, mica voglio litigare, mica voglio usare le mani oggi, aiuto, esci se fai coraggio, esci, cazzo, non ho mai cazzo toccato un cinto a nessuno, cazzo, mi incolpano così, carriaggio. Cosa c'hai, Anto? Me l'hanno fatto avvelenare. Carriaggio, pena e no, che gatto, io sono con una bassona unezza a gioco, gatto, non è voto di queste cose. Lei che te lo dico il radio, non te lo dico gatto di disfartemi. Carriaggio! Cazzo, che non ti ho fatto un cazzo, non ti ho fatto. Cazzo. Problemi io faccio di Dina, ma manco per sogno. Carriaggio! Cazzo, oggi mi ha fatto girare le balle me. Cazzo di alo. Cioè che cazzo sono una persona di tanto di cappello me. Che a me mi conoscete tutti a Sassari me. E non ho mai avuto problemi con nessuno, non ho mai avuto un debito, non ho mai avuto problemi con nessuno. Ma stiamo scherzando, stiamo. Minchia cazzo. Tanto. Cra, mi girano le balle stasera me. Stasera a cazzo c'ho il fumo che mi sta uscendo dai coglioni. Cazzo. Cioè, io non ho problemi, non ho. Sono onesto solo, non ho mai rubato un cito a nessuno. Cazzo. Coglioni. Ma chi è che ti ha preso per aver parlato? Cosa ti è successo? Ehi. No, qua non voglio manco spiegare, però se c'ha le palle deve uscire, deve. Stasera deve uscire, deve. Deve uscire stasera, se ha le palle mi qua davanti a tutti. Che io sono una persona onesta, non ho mai rubato un cito a nessuno, non ho mai rubato. E tutti mi vogliono bene a me nella città, perché non ho mai rubato niente a nessuno. E allora approfitta di questo, no? Se tutti ti vogliono bene, come io ti voglio bene, tutti ti vogliono bene, fotti digna tu. Lo so, però cazzo sono troppo arrabbiato sono. Un bel incazzato. Certe cose fanno male, certe cose fanno male però, dai. Rilasciati e stai sereno, fotti digna. C'ha ragione Claudio, ciao Claudio. Tu sei sicuro di te stesso? Sempre a testa alta. Io vabbè, non ti conosco, ma per quello che sento diciamo in radio, che mi sembra una brava persona, un lavoratore, quindi. Cerca di essere superiore, dai. Cappa, non ho mai rubato un soldo a nessuno, cazzo, te lo giuro, cazzo. Te lo giuro su Dio, non ho mai rubato un euro a nessuno qua. Ho sempre lavorato, e se non li avevo li chiedevo. Li ho sempre chiesti, li ho sempre do rabbia alle massone. Non ho mai rubato un euro. E appunto per quello, se tu c'è la coscienza pulita, rimani con la tua coscienza pulita. Poi se c'è un errore si mette a posto e se no pazienza tu. Fregatene, dai, non c'è bisogno di stare a voce così. Neanche per chi ti sente. Vabbè, claro, mi devo sfogare, mi dovevo. Questa sera ho fatto un po' di gomito. Cazzo, ero nervoso, ero, cazzo, io. Voglio conto bugnare un muro, cazzo, ero incazzato niente, vero? Ma non risolve niente così, Andrò. Sempre tranquillità, quando uno c'ha la coscienza pulita deve stare sempre tranquillo e sereno, a fonti di lì, capito? Ti ho sentito, c'avevo la radio accesa e tu sei sempre Antonio, stai tranquillo e sereno, perché ti conosce, sei sempre Antonio tu, non sei né ladro né truffalore, sei Antonio, un grandissimo lavoratore. Come io ti stimo, lo sai, tantissimo, quindi a futtidini, io non so cosa è successo, non lo voglio sapere, però stai sereno e tranquillo, non ti voglio sentire così a voce, manco bagate intendi. Ma è un raggio raffarando, aspetta. Ora. Il già sta uscendo adesso. Mi ha dato risultato di questa cosa. Ti giuro, cazzo, non ho mai volato nulla, non ha giù. Cioè, cazzo, mi hanno accusato, male. Cazzo, veramente, non andava così. Vabbè, dai, scusate, ma io non ho sfogo. Basta così, ti sei sfogato, riprenditi tranquillo e stai sereno e pacifico. E per come ti conosco io, ciò che stai dicendo per me è assurdo. Quindi chiunque ti abbia detto queste cose, c'è solo un errore e basta. Ok? Mi raccomando, vieni lontano dalla radio, che sto mangiando. Stai sereno e tranquillo, ti lascio in compagnia di Franco. Vai, Franco. Hey, cazzo, lo so che danno fastidio certe cose. Poi bisogna vedere se sono cose riportate o te le ha dette lui direttamente. Perché a volte la gente parla e ci ricamano sopra. Poi ormai si sgonfia tutto, dai. No, me l'ha detto lui direttamente, me l'ha detto, ti giuro cazzo bravo, a me non mi conosce, ma non l'ho mai volato nulla, non l'ho. Cazzo veramente, te lo vedere, non l'ho mai volato nulla, non l'ho. Cioè, ma ha accusato domani c'è sera. Cazzo, ha disempilato tutto a tutti, non l'ho mai volato un cazzo, te lo giuro, va fra. Cazzo credimi. Cazzo, ma non l'ha accusato domani, ragazzi. Oddio, vado a provvedere però. Ehi, Mario, ha fatto una cappellata, una cazzata che poi Mario sicuramente a mente adesso a caldo si è un po' incazzato, poi Mario domani a freddo ci ragioni sopra, ci parli sopra, magari si risolve tutto, dai, non prendete la cuore che sennò è peggio. Capo, non ti preoccupare, dai. Ma ci vuole da curi, cioè stasera me lo preso a cuore un po', perché tanta gente non ha mai fatto di chi si cose, cazzo, ma pago la cazzo mi deve proprio a me, e cazzo ne sono sicuro a mille per mille che non l'ho fatto qua, te lo giuro, cazzo ma mi ha accusato un cazzo di ragione, no, qua lasciamo perdere, va. Dai, dai, adesso cerca di dormirci sopra. Ma come poco fa ti hai sceso il segnale? Le hai dato un colpo e sei di nuovo risalito. Cosa succede nell'apparecchio? È un po' così, sta radio, già va. Ma è la radio o qualche accordatore, cos'è? No, è la radio che fa un po' il capriccio. Sei sceso a 9.20 mi sembra, e poi sei risalito a 9.30. Cosa vuoi fare? È un po' bussi. Sarà qualche saldatura, qualche falso contatto. Adesso saranno bene, dai. Sì, signore, va bene adesso. Vabbè, non c'è nessuno, tanto. A quanto pare, no. Non c'è nessuno. Non lo so, che dirti. Sei entrato stasera da lavoro, no? Con la prestazione lì? Sì, già sono entrato già. Ma Luca non si è sentito? No, io ho acceso, c'era la mia Alice, mi ha risposto. Antonello, dai, con Polio. E basta. Vabbè. Ora. Stai andando. Che entrava Luca, mi pare, boh. Luca, ci sei? Ma Luca... Luca Manicomi, Luca del Monte? No, è un po' che non lo sento a Luca, boh. C'era un po' di propagazione poco fa, ero sui canali alti, perché qui non c'era nessuno. Ma a quanto pare, no, non c'è nessuno, boh. Non lo so. Già iniziata, quei giorni di caldo la propagazione. Sta arrivando un po' di gente sia dall'Italia che dall'estero, dai, da fuori, da lontano. Capo, già ho sentito qualcosa. Ho cambiato il capo di un deposito, ma lo devo accorciare perché è troppo lungo. Ho messo 213. L'RG 213, quindi quello è un po' più grosso, dai. Volevo accorciare perché non va bene. Ma c'hai stazionari anche? Sì, e poi non mi capita il PL. Però se c'è stazionari, prima non ne avevi con l'altro capo? No. È strano, in genere dicono che, in teoria diciamo, qualsiasi misura di capo va bene. Se c'è stazionari vuol dire che sono problemi di accordatura d'antenna, dai. Balle. Così dicono che se l'antenna è a posto la misura del cavo non conta. Lui, non è vero niente. Misure come se contano, si può cambiare tutto. E intanto devo cambiare il barilotto, domani adesso devo portare il saldatore, perché con il barilotto non serve assolutamente a nulla, non va bene, perché il PL non c'ha vita. li cambio quello, cioè li metto quello lì, li metto e se lo faccio a 15 metri come era prima. Perché ce l'hai questo barilotto? Questa disfunzione? Perché non hai il cavo intero? No, il barilotto al PL, perché non c'ha vita. Ah, non è che c'è una disfunzione col barilotto, perché il barilotto io intendevo dire quella, diciamo, quella femmina dove tu ci infili due PL, no? Una a parte e una all'altra per aggiungere il cavo, là. No, non c'ha vita proprio il coso, il PL non c'ha vita, l'apparecchio non c'ha vita un cazzo, proprio difettoso. Io cosa faccio? Lo dissaldo, li metto un barilotto che c'ho io. Almeno a vita. Il difetto ce l'hai nel PL, nel maschio, diciamo, non nell'apparecchio. Vabbè, ce l'hai un PL, sì. Sì, a viaggio. E quindi ci vuole quello senza riduzione, in modo che ci metti il cavo grosso. Sì, no, quello lì. Guarda, cosa faccio? Di saldo quello lì domani. Va bene qua. Il saldatore è qua. Domani porto il saldatore. Domani lo disaldo. Ne tolgo il barilotto, ne taglio il tetto che è in eccesso, che sicuramente chi so che mi fate dare stazionaria a me, perché vuole il cavo, vuole giusto, non è così, no, perché l'antenna è stata tarata per quello, deve essere giusto, lo posso io, ci ripiazzo il PL col barilotto che ha vita, cioè col coso che ha vita. Ti sei abbassato di nuovo? Cazzo, ti bagliare in giro, Luca. Aspetta. Ora, andiamo indietro. Sì, adesso sei 9.30 di nuovo. Scendi da 9.20 a 9.30. Boh, c'è qualche difetto a far parecchio. Ora. Siamo negati la cosa, ripicca. Signora a mare, andendi. Vabbè, com'è? No, adesso è stabile. Ma che saldatura deve esservi? Cosa fai tu per ripristinare il segnale? Cosa fai? Dai un colpo, muovi il cavo, cosa fai? Un colpo in giro, io. Cosa devo fare? Lo facevo anche a me, sai cosa c'avevo dentro l'apparecchio? Una saldatura fredda, staccata, hai capito? Quindi a volte toccava, a volte gli ho rifatto la saldatura, boh, non ha più fatto quel difetto. Ma io non è docco di ghiaccio. Ma ti salgo anche le stazionarie quando ci si stacca la roba? Negativo, mi si abbassano un bel, perché non c'è più vatte. E allora già, non c'è pericolo, però tienilo sotto controllo, se riesci a farlo sistemare, tanto sicuramente è una cazzata. Cappa. Adesso domani ne taglio il pezzo d'eccesso, lo misuro qualcosa, lo faccio passare il filo e come si dice? E ve lo posso mettere di comanda, perché tanto non c'è verso. Molti metri ne hai in più di cavo. 5 metri in più e non va bene. Insomma, un po' troppi sono. Oggi gli spazi, cosa c'è? Sul tetto è l'antenna? No, è appoggiato al coso, la casetta. Perché se ci cambia più fai una curva grande sopra il tetto, non glielo spavi bene, se non lo puoi tagliare. E se no, pazienza, lo tagli. Cappa. Perché a volte magari poi sposti la stazione, vai da una parte all'altra e ti serve il cavo, dimmi, io da giusicato invece lo spazio nel tetto, se riesci a fare una curva ampia senza fare pieghe, no? Un cerchio grande sul tetto e 5 metri vai li recuperi, tanto dispersione non ne hai, 5 metri non ti cambia la vita. Ma magari cambia la stazionaria, capito? Perché mi sono accorto che mi sono salutate troppo. Ma è strano, magari c'è un problema al PL, come dici tu, il sistema del PL va via tutto. Ma io lo taglio come era quello là, lo taglio. Ma questo è un altro cavo, capito? C'è una differenza uguale. Però c'è un fattore di velocità sicuramente diverso da quello, quindi non è che lo puoi fare della stessa misura, capito? Perché il valore di quel cavo è diverso da quello che tu hai cambiato. Che cavo avevi prima? R58. Ma no, è 50 ohm, uguale. Sì, le ohm sono uguali, però il fattore velocità cambia, perché questo c'ha più RAM, capito? E quindi, come si dice, la corrente passa più in fretta. Il fattore velocità è diverso. Ah, è un conduttore migliore quello che hai messo adesso. Sì. Quindi cambiano le misure, capito? Non le puoi fare uguali. Prova piano piano, accorcialo piano piano. Non tutto in una volta, amico. Cazzo, è un casino. No, lo faccio uguale come era quello là, sono sicuro che poi va bene. Magari gli fai un metro in più e poi vedi un po' piano piano lo accorci, un mezzo metro in più, dai. Se non buttare molto a capo. E poi se vedi che va bene, faccio così, se no piano piano tagli. Tanto lo devo togliere, lo devo, perché quel cazzo di cosa non c'ha vita all'apparecchio, quindi lo devo togliere, lo devo accorciare. Ma è fanato questo PL, cos'è? Perché non ha vita? No, sono i piedi di Fusaro che sono difettosi. Se vuoi te lo posso vedere, non è un problema. C'è poca filettatura e non riesce a avvitare al coso. Ma io ne metto un altro che ne ho qua e via, è avvitato. Ci voglio quei PL vecchi, quelli o in ceramica o in bachilite, quelli ci vanno buoni. Questi che prendi adesso, sono dal rumore che fanno, la mirina da niente, non per nulla, non c'è niente proprio. Se saldi appena appena ti squagliano che sono in teflon. No, non è quello il problema. Il problema è proprio quello che, come si dice, il problema è proprio quello che, cioè proprio quelle macchinette sono che c'hanno, sono difettose di fabbrica, non ci avvitano, capito? No, è nuovo, è preso nuovo, questo però fai cambiare, no? No, l'ho preso io, l'ha preso una persona, ma ricambio le cose a posto. Beh, ho capito, io a volte uso quelli vecchi in ceramica. Già da come li prendi di peso proprio te ne accorgi che pesano il doppio di quelli moderni. E poi anche il rumore cambia. Non c'è più nulla, sono a risparmio, Lo so. Magnato vai a tu. Ehi. Ho qua ho l'H155. Io l'ho preso quando con la presunzione di mettere l'antenna sul tetto, invece ce l'ho ancora arrotolato, fermo lì, e l'antenna è ancora sulla finestra, vabbè. Deve capitare l'occasione che dobbiamo aprire il tetto, se capita un lavoro magari, perché bisogna togliere tutte le tegole per salire poi sul tetto, non abbiamo accesso. Un cernaio vi fate. Quello sarebbe l'ideale, Già sul tetto su sopra di me, dato che io sono in mezzo. Penso che non è neanche calpestabile, perché penso che sia fatto a tavelle, Ci sono le coordonate lunghe e le tavelle, infatti non ci puoi neanche passare sopra, ci sono i tavoloni per passare da un punto all'altro, dai. E da cosa? Non è una casa recente, no? Sono belle case perché sono fatte bene, i muri dentro casa sono grossi, sono da 60, i muri di serie sono da 60, cioè tutta in tracchite. Però insomma, il tetto si potrebbe fare qualcosa, tipo isolarlo con dei pannelli polistirolo, qualcosa di isolante, e poi mettergli un altro piano di tavelle sopra, sia a posto, anche per quelli che ci abitano su, che prendono sia meno freddo che meno caldo d'estate. Sì, aveva ragione, io. Tu non sei l'ultimo piano? No, io sono in mezzo, sono tre, diciamo che sono al primo piano, ce n'è uno sotto e uno sopra, dai. Peccato. Infatti la mia antenna arriva sotto la grondaia, la punta arriva a grondaia, infatti una volta ha fatto un bel vento, ma l'ha piegata e si è incastrata sotto il cornicione. Un attimino, non la canna la pecca, no, l'ha dato un colpo, ne è uscita subito fuori. Un'antenna migliore non te la puoi mettere. E cosa metti? È attaccata alla facciata, non posso metterci nulla, è già troppo questa. Non posso vedere, ho anche una mantova, però non ci stanno i radiali perché ce l'ho attaccata al muro, è un palmo dal muro. Ho capito, ma la mantova tetto andrebbe bene. Anche lì ci vuole un palo alto, perché non la puoi mettere bassa sul tetto, la mantova, se non disturba le antenne che ci sono. Mi sembra che vuole almeno 6 metri dal piano, dai, del tetto. Basta anche 4. Anche 4, sopra ci sono quei tubi fini delle antenne, quelle da quant'è? Da 3 quarti, un pollice, quelli piccoli d'acqua. Ho capito. Cos'è la mantova 1? È una vecchia mantova, l'ho sistemato un po' i radiali, ma ancora non l'ho mai provata. Prima di metterla sul tetto bisogna provarla in campo aperto per vedere se c'è a stazionare, perché sennò è da buttare. Magari è buona la mia ancora, cazzo. Finché non approvi, perché avevo ricostruito anche la bobina, poi non smonta più, è tutto un pezzo, adesso l'ho tagliata in due perché sennò non la puoi neanche manovrare, diciamo, l'ho fatta in due pezzi con il tagliatubi, adesso devo creare un innesto poi per riunirla, quindi un tubo che entri dentro l'anima e poi la avvitto o la rivetto. Ma se l'hai fatta bene dovrebbe andare. Non lo so, ci sono un sacco di accorgimenti che devi prendere, tipo il cavo per fare la bobina voleva di quello particolare per fare, tipo quello che usano per fare gli avvolgimenti dei trasformatori, non mi ricordo come si chiama il cavo, il rivestito, quel rame. Ho capito, cazzo, non va bene. Io ci ho messo un cavo normale, è da provare, basta, se no pazienza. Magari qualche piantone si trova in giro, qualcuno ce l'ha, magari un rimasuglio di... Forse un piantone ce l'ha Claudio anche, Claudio Starviero. Non lo so. Magari un pezzo io, un pezzo lui si può rigenerare, se ci riusciamo, se no pazienza. Piano piano. Bisogna provarla per vedere se va bene, capito? Sì, il piantone ce l'ho a casa qua, i radiali li ho, credo di averli sistemati, poi bisogna vedere se sono accordati bene. Ho fatto tutto, diciamo, il cavo spiralato nuovo, invece di essere interno ce l'ho esterno adesso, un cavetto di rame, più o meno quella misura che dovrebbe essere, 2,75, tutto avvolto sul radiale in vetro resina, dico dai, tagliata in due pezzi. Quella da sistemare a misura e bloccare. Ma che era un'antenna che hanno ricostruito? No, era un'antenna che c'era prima in un'altra QTA, che in un'altra casa. Era stata smontata, ma purtroppo non l'abbiamo smontata bene, l'abbiamo lasciata innestata e si è bloccata, si è ossidata, ho provato anche col cannello qua, nuda, non molla, ci ho messo il CRC ridotto, è proprio ossidata al 100%. Non si riesce a toglierla. È tutto un blocco. Se forse ancora si rompe, si distrugge. Quindi se funziona così, se no pazienza. Non sai come devi togliere quei cose. Di solito quando sono un po' bloccati, col pappagallo è a colpi. No, il pappagallo la stava già distruggendo con i denti. No, l'avrei rotta, è inutile. Se non favo il fuoco, figuriamoci con nulla. L'ho battuta col martello piano piano sulla morsa, nulla, niente, non si muove manco un decimo di millimetro. Io vado a mare. È rimasta forse 20 anni, se non di più, 30 anni mi ferma. E qual è il problema? Che era un po' in pendenza, è entrata acqua dal tubo principale, e quindi era piena d'acqua, quindi si è ossidata per quello. Ecco perché, la saldata. Si è saldata, è tutto un blocco di alluminio. E quindi non c'è niente da fare. Da. Vabbè, pazienza, già non è morta la perdita. Peccato. Peccato sì, perché è una delle migliori antenne, dai.